Fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. È 1:45 del mattino, buongiorno, buonanotte, buon pomeriggio a tutti in base a quando ci ascolterete, ascolterete queste voci e questo clippino audio, chiamiamolo così, visto che andrà in replica 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, non sappiamo quando andrà in programmazione, quindi ci portiamo avanti salutando tutti. È sempre Risto Radio Convento, io sono sempre Master Nick e anche in questi minuti ho la fortuna di ospitare una sposa di questa serata, una bellissima sposa che sembra un po' tutta confettosa, perché tutta rosa, la collanina hawaiana, il tutù tipo la gonnellina hawaiana, insomma sembra fatta e finita per essere o messa in una bomboniera o essere messa intorno a un carillon a ballare, a lietare un comodino di una camera da letto qualsiasi, oppure per diventare un confetto. Adesso le chiederemo quale aspirazione ha nella vita rispetto a queste tre possibilità. Intanto la conosciamo meglio. Buonasera. Buonasera. Benvenuta, come ti chiami? Angelica. Angelica, benvenuta, che tra l'altro mi ha proprio detto all'ingresso: mi raccomando, ci tengo molto a dire che io voglio diventare un confetto, e quindi dai risalto a questo. Io, fedelissimo al mio dovere, ho la prima cosa che ho detto: lei ci teneva e siccome la sua festa è giusto che lo diciamo. Tra l'altro salutiamo, come si chiama la tua amica fuori? Federica. Federica, salutiamo, salutiamo Federica la testimone, che ha un lo potrà risentire, ha un problema importante con le foto, cioè non riesce a tenere gli occhi aperti, e quindi abbiamo passato più o meno 5 minuti all'ingresso a rifare foto per capire il momento in cui fosse riuscita a tenere gli occhi aperti, ma poi ci siamo arresi. Quindi è proprio un trauma che si porta dietro da piccola e che, vedete, adesso sta dimostrando di non aver superato, e ancora in quella fase in cui, ecco, scende addirittura le scale. Questo vi fa capire quanto può essere grave il problema di non riuscire a tenere gli occhi aperti quando vi fanno le foto. Ecco, se volete donare 2 euro per salvare questa ragazza che è in difficoltà, mi raccomando, mandate un messaggio 45448 e le regaleremo una macchina fotografica che la riprenderà sempre con gli occhi aperti. Detto questo, parliamo anche di un'altra cosa importante, meno importante rispetto alla campagna sociale che abbiamo appena fatto, cioè il matrimonio di Angelica, che giustamente penso capirai anche tu è in secondo piano rispetto a tutto questo, però è giusto parlarne perché alla fine siamo qui per questo e dobbiamo anche qui fare il nostro dovere. Allora, quando succederà? Dici un po'. 25 agosto. 25 agosto, anche tu, tipo la terza intervista, terza persona che mi dice che si sposerà il 25 agosto. Ma cosa si trovate di bello in sta data? Tutti lì. Veramente non ci sarà nessuno in giro quei giorni lì. Beh, in teoria, siccome il testimone del mio futuro marito e la mia, il capitano della mia squadra di calcio sposano le 2 settimane dopo, ci è rimasto solo quello. Ah, ho capito. Quindi, cioè, probabilmente fate 3 settimane di matrimonio. Esatto. Cioè, è un never ending. Non esatto. Finite più. Tu praticamente ti sei comprata tutti i vestiti di tutte le possibili marche del mondo e ci sarei sempre vestita benissimo in quelle 3 settimane. Vero? Lì. Bellissimo, non è che viva male, voi donne vi piace vestirvi bene, quindi non è che sarai dispiaciutissima, penso. Quindi proprio un discorso di calendario matematico. Esatto. Beh, mi fa piacere che abbiate scelto una data così importante per esclusione. E, no, però mi interessava il capitano, cosa hai detto? Della mia squadra di calcio. Ma cosa vuol dire? Cosa succede? Noi giochiamo a calcio tutte, anche la Federica. Tutte. E fa il portiere, immagino. No, io faccio il portiere. Ah, ok. Beh, giustamente, non tenendo gli occhi aperti, se mi le fai fare il portiere e non sa tenere gli occhi aperti, diciamo che non è che abbiate molte chance di arrivare in Champions League. Bello, quindi fai il portiere. Da quanti anni? 2. 2 anni, quindi fai schifo praticamente, sì, appena cominciato. Cioè l'esperienza pari a uno dei tuoi figli praticamente, sì, lo metti in porta, fa meglio. No, scherziamo, la squadra come si chiama? Polavero, CSI Polavero. Vabbè, e dove giocate? A Polavero. Pensa un po', il caso, a volte i casi della vita, il destino è veramente beffardo. E calcio A7-11? A7. A7, molto bene, quindi, come dire, tuo amico questo mi ha detto. Ah no, scusa. Un altro sposo, molto bene. E no, stavo pensando una cosa importante, cioè che solitamente sono le mogli che si lamentano dei mariti perché arrivano a casa con le divise sporche. In questo caso abbiamo ribaltato i ruoli, perché no, magari il tuo futuro marito gioca anche lui. No, no, no, no. Quindi le divise sporche a casa le porti tu. Esatto, e le lavo io perciò. Vabbè, te le lavi, quindi se le sporche se le lava. Esatto. Ogni tanto sbaglia e si mette in lavatrice al posto della divisa e si fa un bel giro turistico e vede il mondo da uno blocco, come recitava una famosa canzone. Allora, poi chi c'è? E lei cosa fa? Lei è il bomber. Lei è il bomber, mamma mia. 72 gol. 72 gol. E chi sei? Cioè, fenomeno. Olly e Benji. Magari. 70, in quante partite? Per il campionato. No, di meno. Una ventina. In una ventina. L'ultima ha fatto 5 gol. 5-0 abbiamo vinto. Perché una ventina, 72 gol. Cosa sono? 5 gol a partita. 5 per 20, 100. 3 per 20, 60. 3 media. Sì, 3 e mezzo. 3 più o meno 3 gol e mezzo a partita. Beh, non male. Cioè praticamente è tipo una, come dire, il flipper, cioè le passa una palla, boom, dentro, boom, dentro. Incredibile, cioè è un fenomeno, un fenomeno. Poi lei cosa fa? Lei fa il tifo. Il tifo, bellissimo, il ruolo più bello, fare il tifo, molto brava, molto brava. E ci sono anche altre giocatrici qui con te stasera? C'è il nostro capitano che si sposa 2 settimane dopo di me. Poi c'è... Ah, infatti capitano donna, chiaramente, giusto? La difesa, l'altra Federica. Punta, la Federica che... Federica fa la punta. Centrale, no, di la difesa. Centrale, centrale difesa, pensate. Ultimo uomo. Quindi no, ecco, quando giocate contro Federica non sarete mai in fuorigioco. Chiudete gli occhi. Perché lei non, lei non sale mai. Per lei, al pari esatto, suo, lei non sale mai. E non vi preoccupate se vedete una che va in giro così durante la partita con le mani avanti e gli occhi chiusi. Perché insomma, anzi, compatitela, dite che vi spiace, che però insomma le siete vicino. E bene, bene, e la squadra c'è da 2 anni o tu sei entrata dopo? La squadra c'è da 6 anni. Io sono 6 anni? Da 5. Però il portiere è stata una scelta un po' recente perché mi ha fatto. E gli altri 3 anni cosa hai fatto, scusa? Ho fatto difensore, punto. Vabbè, hai giocato comunque. Sì. Hai solo cambiato. E com'è nata sta cosa di buttarti in porta? Perché sai far la pasta? Ah no. Perché magari reberava a far la pasta e quindi ha detto, boh, sa che magari no. No. Mi hanno spaccato una gamba in un brutto fallo, ho deciso okay. Che non volevo più rischiare. Ah ok, è stata una scelta tua quindi, è stata una scelta tua. Bene, bene, è bello sempre parlare con le donne di calcio. E cioè, hai sempre giocato o hai iniziato quei qualche anno fa? Ho iniziato 5-6 anni fa. Cioè con la squadra, col Polaveno. Prima non avevi mai pensato a giocare a calcio, mai. E come mai ti è venuto sto... Sempre avuto la passione, alla fine adesso sì? Proviamoci. Ma brava, brava, vedi che non è mai tardi per inseguire le proprie passioni. E un'altra passione che hai, immagino, è quella dei tuoi bambini o bambine, adesso non lo so ancora. Un bambino e una bambina. Uno e uno, benissimo. E vengono a vederti alle partite? Sì, ogni tanto. Fanno il tifo? Vabbè, una a 6 mesi. Per vabbè, quindi non è ancora cosciente, non può intendere e volere, benissimo. E l'altro viene a vederti. Sì, è un po' geloso? No, è contento. No, geloso nel senso che magari lui non può giocare, vedere mamma giocare. Lui giocherebbe qui, perciò. Ah, lui giocherebbe, perfetto, una famiglia stupenda questa. È una famiglia di stranezze. Sportivi. Sì, diari sportivi, una famiglia di ruoli ribaltati. E tuo marito fa la maglia magari, no? Andava in moto. Andava in moto, quello ci sta. Quello è un grande classico, è un grande classico. E quindi dicevi, fai la mamma e anche, e come si chiamano i tuoi bambini? Pietro e Arabella. Pietro e? Arabella. Arabella? E da dove arriva questo? Da un libro che ho letto tanti anni fa. Perché io mi ricordo Clarabella, che è un personaggio di Disney, se non sbaglio. La mucca. La mucca, brava. Ma Arabella no. È un personaggio che ho letto in un libro tanti anni fa. Che libro è? Si chiama Poker di Regine. Poker di Regine? Poi è una guerriera scozzese che è morta nella Torre di Londra. È una guerriera. Ok, interessante. Vi chiama la Federica? No, no, beh, tranquilla. Io da quello che ho letto dal labiale ho detto ridatemi la mia amica Angelica, non la vedo più. Ho detto, io quello ho interpretato. Angelica dove sei? Io sto capendo. Hai visto l'Angelica? Ti sta chiedendo? Ah, dietro c'è il capitano. Oh, capitano, lui è il capitano. Grande, la bionda. Si sposa tra 2 settimane, il 25 e dopo. Ma a metà settembre, a metà settembre. No. Le 8 settembre. L'8 settembre, se no. Niente, lei bomber intanto, capito, è fuori. Capito. È appassionata ai microfoni, c'è poco da fare. E bene, bene, bene. L'allenatore è uomo o donna? Uomo. Uomo, che vita che fa. Cioè è la persona più fortunata. La nostra compagna. Ah, niente, è andata male. È la persona più fortunata del mondo dal mio punto di vista. E vi vede fare la doccia, no? Scappa. E poi anche perché poi mi menate, vi fate le unghie, vi strisciate i capelli. Quindi è meglio starvi lontane, è meglio starvi lontane. Va bene, va bene. Volete fare un saluto? Volete dirci qualcosa? Io volevo ringraziare le mie compagne perché sono state fantastiche e hanno fatto una cosa per me meravigliosa, perciò grazie, Gnare, vi voglio. Tranne la Federica che è andata in un locale a Brescia perché ha sbagliato l'uscita dell'autostrada e quindi è finita in un locale a Brescia e l'andremo a prendere tra un po'. Voi ragazze volete dire qualcosa? Tanti auguri alla Angie. Tanti auguri alla Angie e Fausto e salutiamo tutte le ragazze che non sono qui in studio con noi. Giusto, giusto, dai, diteci i nomi, diteci i nomi. Allora, Federica, Ramona, Viola, Paola, Elena Veronica che non c'è. Esatto. Che anche Elena. Lei si sposa probabilmente a breve, perciò auguri. Vi fate una mese di magnate a settembre praticamente. Voglio vedervi la preparazione. Come mi saltellate dopo aver 200 kg di tacchino e di risotto che vi girano lo stomaco. Va bene così. Basta, avete detto tutte? Sì. Ok, tu hai già salutato. Io l'ultima domanda importante ve lo fare alla tifosa. Chi è? Le regine dello spiedo. Ah, sì, è vero. C'è questa cosa che c'è. Stronzo. Cos'è lo zio? No, lo tuo zio, giusto? Non ricordo male. Sì, tuo zio. Che ha un ristorante, il famosissimo spiedo bresciano, che oltre a essere uno dei piatti tipici, comunque dei portabandiera di questa provincia, sentivo dire che lo fa bene e quindi se la cava bene. No, tornando a noi, dicevo, volevo chiedere una cosa alla tifosa, se c'è un coro, come dire, rappresentativo della loro squadra. Beh, è poco, come si può dire, è poco edificante, ecco. È rumoroso. Vabbè, sì, che c'erano tipo 800.000 squadre in tutto il mondo, ma basta, alla continua così. Forza Polaveno. Sì, ah, esatto. Certo, Forza Polaveno. Bene, bene, e quindi vabbè, insomma, c'è. Loro hanno il rito prima della partita che però è segreto, parlano sottovoce, io non sento. E alla fine però, tutti i riti finiscono con Enkület. Enkület, bello. Sì, diciamo è una squadra molto che bresciana. Esatto. Mi perdonerete, traduco per i non bresciani, quindi quelli del centro sud Italia. Enkület vuol semplicemente dire dopo ci mangiamo una pizza. Niente più di questo, non vi preoccupate. Nessuna offesa, nessune brutte parole. Sono persone a modo, come avrete sentito, eleganti, dolci, gentili. E quindi non vi preoccupate che non succede nulla di strano. Quindi quello lì è il tip. Ma tu vai con i tamburi proprio? No, gli striscioni direttamente. Ah, gli striscioni, mamma mia. Organizzazione esemplare, esatto, esemplare, sì. Va bene, bravissime. Allora in bocca al lupo per il vostro prossimo campionato, che immagino rifarete. E tanto lei 4 gol a partita comunque rifà in qualche modo. Anche se non si gioca. Esatto, di rifa. Cioè, anche se... No, ma sai quando... Beh, lo saprete meglio. Quando una squadra si presenta che si perde a tavolino, comunque 3 gol glieli danno. Sì, cioè, di solito il risultato. Esatto, il risultato è 3-0 di solito. Loro 7-8 se una squadra si presenta. Ma infatti ne hanno perché... fatti 70 perché non si è mai presentato nessuno. Sì, però a lei ne davano 3 comunque. Cioè, di default in automatico lei ne pigliava 3. E quindi gli altri li assegnavano liberamente al resto delle giocatrici. Comunque, di base, è perché lei vuol fare la collezione di palloni. Sai che c'è questa mania di ogni 3 gol di portarsi a casa il pallone. A lei piace sta collezione di palloni, vuol portarsi tutti in camera da letto. E quindi è così, insomma, si deve impegnare, deve portare a casa l'obiettivo. Sì, tutti i palloni del mondo, sarà la sua autobiografia che leggeremo a breve in tutte le librerie. Tutti i palloni del mondo si chiamerà, mi piace anche come titolo, è molto, molto esaustivo. Grazie di nuovo ragazze, vi ricordo ancora una volta il vero messaggio di questa serata: 44520 per donare una macchina fotografica a una ragazza che non riesce a tenere gli occhi aperti quando le si fanno le foto, e con questa macchina li avrà sempre aperti. Quindi mi raccomando, fate del bene. Noi del convento cerchiamo anche di dare questi messaggi educativi importanti. Anche tu, Angelica, ricordalo, ricordalo a tutti. Forza Federica, ti prego, donatevi questa macchina fotografica. È giusto, in è modo giusto. Che possa aprire gli occhi. Ragazzi, è l'unica persona forse al mondo che non è in grado di farsi selfie. Cioè, nel senso, rara. Ogni volta che prova a farsi selfie si prende sempre l'orecchio, si prende storta perché non ce la fa, non riesce a guardare l'obiettivo. Quindi aiutiamola a farsi dei selfie per entrare ufficialmente nel mondo moderno. Cioè, lei è ancora al medioevo. e tra l'altro non sta sentendo nulla, la stiamo pigliando in giro da due ore e non sta sentendo nulla. Questo è il bello di Ristoradio Convento. Grazie ancora ragazze e alla prossima, ciao, ciao.